Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. Oggi si parla di una rivoluzione a base di energia pulita in grado di generare investimenti per 177 miliardi l'anno, creare oltre un milione di posti di lavoro, dare una spinta alla crescita del PIL dell'Unione Europea. Insomma, questi sarebbero i grandi numeri del maxi pacchetto d'inverno varato oggi dalla Commissione Europea, che in oltre 1000 pagine di proposte normative ridefinisce il mercato elettrico, le bollette, le rinnovabili, il ruolo dei consumatori. Naturalmente, insomma, una grande libro di progetti, molti dei quali sono in corso da tempo. Un capitolo intero e importante è dedicato all'automobile, intesa come spostamento, intesa come mezzo, ovviamente come mercato e produzione, ma anche appunto come modalità in cui i nostri movimenti cambiano di anno in anno. Allora, oggi approfondiamo questo aspetto nel servizio che sentiamo insieme. Non è un'opzione, ma una necessità. Violeta Bulc, commissario europeo ai trasporti, non ha dubbi. Il futuro è ormai segnato e la svolta è dietro l'angolo. Il futuro si chiama trasporto digitale, treni, metropolitane, vetture connesse alla rete, semafori che dialogano con gli automobilisti per avvertirli di ingorghi o di eventuali infrazioni, droni che consegnano pizze e pacchi, standard comuni per biglietti aerei e ovviamente l'avvio dell'auto a guida autonoma. Tutto questo fa parte del grande progetto europeo per la mobilità del futuro da attuare entro il 2019, con investimenti che nel tempo potrebbero superare i 3 miliardi di euro, un piano che verrà presentato oggi a Bruxelles nelle sue linee guida. Ma nel trasporto digitale entra o no anche il servizio Uber? Sul tema proprio in queste ore sta cercando di dare una risposta alla Corte di Giustizia Europea. I giudici devono stabilire cosa sia esattamente la startup americana che permette di trasportare persone, se un servizio di taxi abusivo, come sostenuto nel 2014 dalla più grande compagnia di taxi di Barcellona, città catalana che ha investito della questione la Corte, oppure una semplice piattaforma digitale che mette in contatto offerta e domanda e alla quale non si possono imporre le limitazioni del trasporto pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, la Corte sarebbe orientata a favore di Uber, con il velato sostegno della maggior parte dei governi europei. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E di questo naturalmente vi daremo conto nel pomeriggio, appunto in attesa di questa decisione importante, sia per la società americana sia proprio per il modo in cui ragioniamo intorno ai prodotti in questo mondo che cambia. Parliamo invece brevemente di difesa. Bruxelles infatti ha proposto anche oggi un fondo UE per la difesa comune, con cui sostenere investimenti per ricerca e sviluppo in attrezzature e tecnologia. Il fondo, che si compone di due strumenti, da una parte la ricerca, dall'altra le capacità complementari, dunque gli strumenti della difesa. Su questo è stato anche un commento poco fa della Mogherini, della nostra rappresentante europea per la politica estera e sicurezza comune. Federica Mogherini dice: una UE più forte rafforza la NATO, dunque ovviamente un sostegno, una proposta che è stata parte del suo mandato in una chiave euroatlantica. Bene, con questo è tutto per questa edizione. Noi ci risentiamo domani. Adesso, come sempre, diamo la linea al nostro tutti convocati, Carlo Genta, insomma, tutto lo sport e il calcio e non solo. Buona giornata domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.